La sua mente fu evidentemente colpita da qualche improvviso pensiero ed uscì dalla sala senza accorgersi di ciò che la circondava, senza rendersi conto che Will apriva la porta e le offriva il braccio per condurla fino alla carrozza. Accettò il braccio, ma non disse nulla. Will si sentiva piuttosto irritato e depresso e non trovò nulla da dire a sua volta. In silenzio l'aiutò a salire in carrozza, si salutarono e Dorothea partì. Nei 5 minuti che impiegò la carrozza per arrivare all'ospedale, ebbe tempo per alcune riflessioni del tutto nuove per lei. La sua decisione di andare e la sua ansia nel lasciare il salotto erano venute dall'improvvisa sensazione che sarebbe stato una sorta di inganno da parte sua se avesse permesso che ci fosse un qualsiasi ulteriore rapporto fra lei e Will, senza che potesse rivelarlo al marito. E già il fatto di cercare Lydgate era un atto da tenere segreto. Questo era tutto ciò che le era passato per la mente in modo esplicito, ma era stata spinta da un vago senso di disagio. Ora che era sola, udì le note della voce dell'uomo e l'accompagnamento del pianoforte, a cui non aveva fatto molto caso al momento, riaffiorare la propria sensibilità interiore. E si trovò a pensare, con un certo stupore, che Will Ladislaw trascorreva il tempo con Mrs. Lydgate in assenza del marito di questa. E allora non poteva fare a meno di ricordare che egli aveva trascorso un po' di tempo con lei in circostanze analoghe. Quindi perché avrebbe dovuto esserci una qualche improprietà nel fatto? Ma Will era parente di Mr. Casaubon e una persona verso cui era suo dovere mostrarsi gentile. Eppure c'erano stati dei segni che forse lei avrebbe dovuto comprendere, in quanto sottintendevano che a Mr. Casaubon non andava che il proprio cugino compisse delle visite durante la propria assenza. Forse mi sono sbagliata in molte cose, si disse la povera Dorotea, mentre le lacrime le scorrevano giù e dovette asciugarle in fretta. Si sentì confusamente infelice e l'immagine di Will, che in precedenza le era stata così chiara, si era misteriosamente offuscata. Ma la carrozza si fermò alla porta dell'ospedale. Ben presto camminava intorno alle aiuole con Lydgate e i suoi sentimenti recuperarono con forza l'inclinazione che l'aveva indotta a cercare questo colloquio. Will Ladislaw, frattanto, era mortificato e ne conosceva il motivo abbastanza chiaramente. Le possibilità di incontrare Dorotea erano scarse, ed ecco che per la prima volta si era presentata un'occasione che l'aveva messo in imbarazzo. Non si trattava solo del fatto che, come era accaduto fino ad allora, lei non fosse interessata a lui in misura somma, ma che lei lo aveva visto in circostanze in cui poteva sembrare che anche lui non fosse interessato a lei in misura somma. Si sentì ricacciato di nuovo lontano da Dorotea, fra i circoli dei cittadini di Middlemarch, che non entravano nella vita di lei. Ma lui non aveva colpa. Come è naturale, dato che aveva preso alloggio in città, aveva fatto più conoscenze che poteva, dal momento che la sua posizione esigeva che conoscesse tutto e tutti. Lydgate era veramente la persona del posto che valeva la pena di conoscere più di chiunque altro, e si dava il caso che avesse una moglie a cui piaceva la musica e che tutto sommato valeva la pena di andare a trovare. Ecco tutta la storia della situazione in cui Diana era scesa troppo inaspettatamente sul suo adoratore. Era mortificante. Will si rendeva conto che non si sarebbe trovato a Middlemarch se non fosse stato per Dorotea, eppure qui la sua posizione minacciava di dividerlo da lei con quelle barriere dell'opinione inveterata che per il persistere di un interesse reciproco sono più fatali di tutta la distanza che intercorre fra Roma e la Gran Bretagna. I pregiudizi sul rango e la posizione sociale erano abbastanza facili da sfidare quando si presentavano sotto la forma di una lettera tirannica da parte di Mr. Casaubon. Ma i pregiudizi, come i corpi che emanano odori, hanno una doppia esistenza, sia solida che impalpabile. Solida come le piramidi, impalpabile come la ventesima eco di un eco, o il ricordo di giacinti che un tempo riempivano di fragranza l'oscurità. E Will aveva un temperamento tale da sentire con accuratezza la presenza di sottigliezze. Un uomo dalla sensibilità più ottusa non avrebbe avvertito come lui, che per la prima volta nella mente di Dorotea era spuntata una certa sensazione di inadeguatezza nel suo trattarlo con libera spontaneità, e che il loro silenzio, mentre la conduceva alla carrozza, aveva avuto un che di gelido. Forse Casaubon, per odio e gelosia, aveva insistito con Dorotea che Will si era socialmente abbassato rispetto a lei. Maledetto Casaubon. Will rientrò nel salotto, raccolse il cappello e, con aspetto irritato, mentre si dirigeva verso Mrs. Lydgate, che si era seduta al tavolo da lavoro, disse: «È sempre una catastrofe quando la poesia e la musica vengono interrotte. Posso venire un altro giorno e terminare l'esecuzione di Lungi dal caro bene? Sarò lieta che me l'insegnate», disse Rosamond, «ma sono certa che ammetterete che l'interruzione era assai bella. Vi invito davvero alla conoscenza di Mrs. Casaubon. È molto intelligente. A vederla si direbbe di sì». «Veramente non ci ho mai pensato», disse Will di malumore. «Proprio la risposta che mi ha dato Tertius quando gli ho chiesto per la prima volta se fosse bella. A cosa pensate voi uomini quando siete assieme a Mrs. Casaubon?» «A lei stessa», disse Will, non alieno dal provocare l'affascinante Mrs. Lydgate. «Quando uno vede una donna perfetta, non pensa mai ai suoi attributi. È consapevole della sua presenza». «Sarò gelosa quando Tertius va a Lowick», disse Rosamond facendo una fossetta e parlando con aerea leggerezza. «Tornerà e non penserà a me». «Su Lydgate questo non sembra sia stato l'effetto finora. Mrs. Casaubon è troppo diversa dalle altre donne per poterla paragonare ad esse. Siete un devoto adoratore, vedo. La vedete spesso, suppongo». «No», disse Will quasi con irascibilità. «L'adorazione di solito è una questione di teoria più che di pratica. Ma io la sto praticando all'eccesso proprio in questo momento. Devo veramente andare. Vi prego, tornate qualche sera. A Mr. Lydgate piacerà ascoltare la musica e io non posso apprezzarla così bene senza di lui». Quando il marito beffatto ritorna a casa, Rosamond disse, standogli di fronte e tenendolo per il bavero della giacca con entrambe le mani: «Mr. Ladislav era qui a cantare con me quando Mrs. Casaubon è entrata. Sembrava irritato. Pensi che non gli andasse che lei lo vedesse in casa nostra? Certo, la tua posizione è più che all'altezza di quella di lui, quali che possano essere i suoi rapporti di parentela con i Casaubon. No, no. Deve essere per qualche altro motivo, se era davvero irritato. Ladislav è una specie di zingaro, non vede alcuna differenza tra il cuoio e la prunella. A parte la musica, non è sempre molto gradevole. Ti è simpatico? Sì, penso che sia una brava persona, piuttosto eterogeneo e bric-a-brac, ma simpatico. Sai, penso che adori Mrs. Casaubon. Povero diavolo, disse Lydgate con un sorriso mentre dava un pizzicotto alle orecchie della moglie. Rosamond sentiva di cominciare a conoscere molte cose del mondo, soprattutto scoprendo ciò che quando era stata una fanciulla nubile le era sembrato inconcepibile, se non come un'oscura tragedia in costume di altri tempi, che le donne, anche dopo il matrimonio, potevano fare delle conquiste e ridurre degli uomini in schiavitù. A quel tempo le giovani signore di provincia, anche se avevano studiato alla scuola di Mrs. Lemon, leggevano poco la letteratura francese posteriore a Racine. E la stampa non aveva ancora gettato la sua stupenda luce sugli scandali della vita. Tuttavia, la vanità, con tutto il cervello e il tempo di una donna in cui operare, può immaginare molto sulla base di tenue illusioni, soprattutto su un'allusione quale la possibilità di un numero indefinito di conquiste. Che delizia catturare dei prigionieri dal trono del matrimonio, con un marito come principe della corona al fianco, lui stesso in realtà un suddito. Mentre i prigionieri alzano lo sguardo per sempre disperati, perdendo probabilmente il sonno e si perdono anche l'appetito, tanto meglio. Ma la storia romantica di Rosamond al momento era imperniata soprattutto sul suo principe della corona e le bastava godere della sua certa sudditanza. Quando gli disse: «Povero diavolo!» Lei gli chiese con giocosa curiosità: «Perché? Ma come? Cosa può fare un uomo quando prende ad adorare una di voi sirene? Trascura il lavoro e accumula i debiti». «Sono certa che tu non trascuri il lavoro. Sei sempre all'ospedale a visitare i pazienti poveri o a pensare a qualche lite fra dottori. E poi a casa vuoi sempre meditare sul tuo microscopio e le tue fiale. Confessa che quelle cose ti piacciono più di me». «Non sei abbastanza ambiziosa da desiderare che tuo marito sia qualcosa di meglio di un dottore di Middlemarch?» chiese Lydgate, appoggiando le mani sulle spalle della moglie e guardandola con affettuosa serietà. «Ti farò imparare il mio brano preferito di un vecchio poeta. Perché il nostro orgoglio dovrebbe far tanto trambusto ed essere dimenticato? Quale bene è simile a questo? Render meritevole lo scritto e scrivere per rendere meritevole la lettura e il piacere del mondo? Quello che voglio, Rosy, è di rendere meritevole lo scritto e scrivere io stesso ciò che ho fatto. Un uomo deve lavorare per far questo, passerotto. Naturale che io voglia che tu faccia delle scoperte. Nessuno potrebbe desiderare maggiormente che tu raggiunga una posizione di prestigio in qualche posto migliore di Middlemarch. Non puoi dire che abbia mai tentato di impedirti di lavorare, ma non possiamo vivere come degli eremiti. Non sei scontento di me, Tertius? No, cara, no, sono fin troppo contento. Ma cosa voleva dirti, Mrs. Chasuble? Semplicemente chiedermi della salute del marito. Ma penso che abbia intenzione di essere magnificamente generosa verso il nostro nuovo ospedale. Penso che voglia darci 200 sterline all'anno. Capitolo 44. Quando Dorotea, passeggiando attorno alle aiuole di Lauro del nuovo ospedale assieme a Lydgate, ebbe appreso da lui che non vi erano segni di mutamento nelle condizioni fisiche di Mr. Chasuble, tranne l'ansia di conoscere la verità sulla propria malattia, tacque per qualche momento, chiedendosi se avesse detto o fatto qualcosa per suscitare questa nuova ansia. Lydgate, non volendo lasciarsi sfuggire un'occasione favorevole per secondare un progetto caro, si azzardò a dire: Non so se voi o Mr. Chasuble avete rivolto l'attenzione alle necessità del nostro nuovo ospedale. Le circostanze hanno fatto sembrare un po' egoistico da parte mia insistere sull'argomento, ma non è colpa mia. È perché contro di esso viene condotta una battaglia da parte degli altri medici. Io penso che linea di massima siate interessata a simili cose, perché ricordo che quando ebbi il piacere di vedervi la prima volta a Tipton Grange, prima che vi sposaste, mi chiedeste qualcosa sul modo in cui la salute dei poveri potesse subire l'effetto delle loro case miserabili. Sì, infatti, disse Dorotea illuminandosi, vi sarò davvero grata se mi direte in che modo possa contribuire a migliorare la situazione. Tutte le cose di quel genere mi sono sfuggite dalla mente da quando mi sono sposata. Vuol dire, fece dopo un attimo di esitazione, che la gente del nostro villaggio vive in condizioni tollerabili e sono stata troppo presa da altre cose per informarmi ulteriormente. Ma qui, in un posto come Middlemarch, ci devono essere un sacco di cose da fare. C'è da fare tutto, disse Lydgate con improvvisa energia, e questo ospedale è un'opera di primaria importanza, dovuta interamente agli sforzi di Mr. Bulstrode e in gran misura al suo denaro. Ma un uomo solo non può fare tutto in un progetto di questo genere. Naturalmente lui si aspetta degli aiuti e ora c'è un meschino, gretto antagonismo suscitato contro questa impresa in città da certe persone che vogliono che finisca in un fallimento. Quali possono essere i loro motivi? Chiese Dorotea con ingenua sorpresa. Principalmente l'impopolarità di Balstro, tanto per cominciare. Mezza città quasi si metterebbe nei guai allo scopo di contrastarlo. In questo stupido mondo la maggior parte delle persone non pensa mai che una cosa sia bene farla, a meno che non sia fatta dalla loro cricca. Non avevo alcun rapporto con Balstro prima di arrivare qui. Lo giudico del tutto in modo imparziale, vedo che ha alcune buone idee, che ha promosso certe cose, che io posso volgere a uno scopo di pubblica utilità. Se un buon numero degli uomini più istruiti andassero a lavorare con la convinzione che le loro osservazioni potrebbero contribuire alla riforma della scienza e della prassi medica, entro breve tempo vedremo un cambiamento in meglio. Questo è il mio punto di vista. Io sostengo che se mi rifiutassi di lavorare con Mr. Bulstrode, volgerei le spalle a un'ottima occasione di rendere la mia professione più utile in senso generale. Sono completamente d'accordo con voi, disse Dorotea, subito affascinata dalla situazione delineata dalle parole di Lydgate. Ma cosa ha fatto di male Bulstrode? So che mio zio ha rapporti di amicizia con lui. Alla gente non va la sua inclinazione religiosa, disse Lydgate interrompendosi subito. Questo è un motivo tanto più valido per disprezzare una simile opposizione, disse Dorotea guardando le faccende di Middlemarch alla luce delle grandi persecuzioni. Per dire le cose esattamente come stanno, essi hanno da obiettare sul suo conto anche per altri motivi. È autoritario e assai poco socievole, ha le mani nel commercio, che soffre di disturbi sui suoi propri, di cui io non mi intendo. Ma questo cosa c'entra con la questione dell'opportunità di impiantare qui un ospedale più apprezzato di qualsiasi altro che ci sia nella contea? La causa più immediata dell'opposizione, tuttavia, è il fatto che Balstroda ha affidato la direzione della parte medica a me. Naturalmente ne sono lieto, ciò mi dà l'opportunità di fare qualche buon lavoro e mi rendo conto che io devo giustificare il perché della sua scelta. Ma la conseguenza è che tutti i medici professionisti di Middlemarch si sono opposti all'ospedale con tutte le loro forze. E non solo rifiutando la loro personale collaborazione, ma cercano di dipingere a tinte fosche tutta la faccenda e di impedire le sottoscrizioni. Che meschinità! Esclamò Dorotea indignata. Suppongo che ci sia da aspettarsi di farsi strada a pugni. Non si può fare nulla senza. L'ignoranza della gente qui attorno è fantastica. Io non pretendo di aver fatto altro che di essermi servito di buone occasioni che non erano alla portata di tutti, ma è impossibile far mettere a tacere il delitto di essere giovane, nuovo arrivato e di sapere per caso qualcosa di più dei vecchi residenti. Tuttavia, se credo di poter fare funzionare un migliore sistema di trattamento, se credo di poter fare certe osservazioni e indagini che possono essere un beneficio durevole per l'attività medica, sarei un volgare tirapiedi se mi lasciassi ostacolare da una qualsiasi considerazione di interesse personale. E la linea di condotta è tanto più chiara in quanto non vi è alcuno stipendio in questione che metta in luce equivoca la mia ostinazione. Sono lieta che mi abbiate detto questo, Mr. Lydgate, disse Dorotea in tono cordiale. Sono certa di potervi dare un piccolo aiuto. Ho un po' di soldi e non so cosa farne. Questo per me è spesso un pensiero imbarazzante. Sono certa di poter trovare 200 sterline all'anno per un disegno grandioso come questo. Come potete essere felice a sapere delle cose che siete certo faranno un gran bene? Vorrei potermi svegliare con quelle conoscenze ogni mattina. Sembra che ci si affanni tanto per delle cose di cui non si vede l'utilità. C'era una cadenza malinconica nella voce di Dorotea mentre pronunciava queste ultime parole, ma subito soggiunse più allegramente: Vi prego. Venite a Lowick a parlarci più dettagliatamente di questo. Farò presente l'argomento a Mr. Casabo. Ora devo affrettarmi a rincasare. In effetti, quella sera lei stessa ne parlò e disse che avrebbero voluto fare una sottoscrizione di 200 sterline l'anno. Al momento di contrarre il matrimonio, le erano state assegnate 700 sterline l'anno come corrispondente del suo patrimonio. Mister Casabo non trovò nulla da obiettare, tranne l'osservazione incidentale che la somma poteva essere sproporzionata in rapporti ad altri buoni propositi. Ma quando Dorotea, nella sua ignoranza, resistette a quel suggerimento, egli acconsentì. Neppure lui badava a spendere soldi e non era riluttante a donarne. Se mai avvertiva con intensità una qualsiasi questione di denaro, era per una passione ben diversa da quella dell'amore per i possessi materiali. Dorotea gli disse che aveva visto Lydgate e gli raccontò la loro conversazione sull'ospedale. Mister Casaubon non le chiese altro, ma si sentì certo che lei aveva voluto sapere quello che si erano detti lui e Lydgate. Lei sa che io so, disse la voce sempre inquieta dentro di lui, ma quell'accresciuto tacito sapere allontanò ancora di più qualsiasi confidenza fra di loro. Egli diffidava dell'affetto di lei. E quale solitudine è più sola della diffidenza? Capitolo 45. Quell'opposizione al nuovo ospedale per le malattie infettive che Lydgate aveva delineato a Dorotea si doveva considerare come altre opposizioni sotto molte luci diverse. Egli la giudicava un misto di gelosia e di sciocchi pregiudizi. Mr. Bulstrode vedeva in essa non solo la gelosia dei medici, ma la decisione di ostacolarlo, suggerita soprattutto da un odio verso quella religione fondamentale di cui egli si era sforzato di essere un valido rappresentante laico. Un odio che certamente trovava pretesti al di fuori della religione, quali era solo troppo facile rinvenire nell'intrico delle azioni umane. Questi si potrebbero chiamare le opinioni accessorie, ma le opposizioni hanno la gamma illimitata delle obiezioni a loro disposizione, che non sono obbligate ad arrestarsi ai limiti del sapere, ma possono sempre trarre alimento dalle vastità dell'ignoranza. Ciò che a Middlemarch l'opposizione diceva del nuovo ospedale e della sua direzione conteneva certo una gran quantità di cose sentite dire, poiché il cielo si è fatto premura che non tutti siano degli originali. Ma vi erano delle differenze che rappresentavano ogni sfumatura sociale, fra l'educata moderazione del dottor Minkin e le asserzioni vigorose di Mrs. Dollop, la padrona del Tankard in Sloughter Lane. Mrs. Dollop si convinse sempre di più della propria solenne affermazione che il dottor Lydgate aveva intenzione di lasciar morire la gente nell'ospedale, se non addirittura di avvelenarla, allo scopo di farla a pezzi senza chiederne il permesso. Perché era un fatto noto che egli aveva voluto fare a pezzi Mrs. Gobby, una donna rispettabile, quant'altre mai in Goblet Street, che aveva del denaro da amministrare prima di sposarsi. Una triste storia per un medico, che se valeva qualcosa avrebbe dovuto sapere qual era la malattia prima che uno morisse, senza volergli andare a curiosare dentro dopo che se n'era andato. Se quello non era buon senso, Mrs. Dollop voleva sapere quale lo fosse. Ma era sensazione prevalente del suo pubblico che la sua opinione era un baluardo e che se questo fosse stato rovesciato, lo smembramento dei corpi non avrebbe avuto più fine, come si era ben visto in Burke e Hare con i loro delitti per strangolamento, una faccenda da capestro di tal fatta non si voleva Middlemarch. E non si pensi che l'opinione del Tankard in Slaughter Lane non fosse importante per la professione medica. Quell'antica autentica birreria, il Tankard originale, noto col nome di Dollops, era il ritrovo di una grande associazione di beneficenza che alcuni mesi prima aveva messo ai voti la proposta se il suo medico di vecchia data, il dottor Gambit, non dovesse essere espulso a favore di questo dottor Lydgate, che riusciva a procurare le guarigioni più sorprendenti e a salvare persone date completamente per spacciate da altri generici. Ma la situazione si era risolta a svantaggio di Lydgate per il voto di due membri, i quali per qualche motivo personale sostennero che questa facoltà di fare suscitare le persone oramai morte era un merito equivoco e avrebbe potuto ostacolare i favori della provvidenza. Nel corso dell'anno, tuttavia, era intervenuto un mutamento nell'opinione pubblica di cui l'umanità da Dunlop era un segno. Molto più di un anno prima, quando ancora non si sapeva nulla delle capacità di Lydgate, l'opinione su queste era stata naturalmente divisa in quanto dipendeva da una sensazione di probabilità, situata forse alla bocca dello stomaco o nella ghiandola pineale, e differiva nel proprio verdetto, ma non era meno preziosa come guida nella totale mancanza di prove. Pazienti affetti da malattie croniche, la cui vita ormai si era consumata come quella del vecchio Fairstone, erano stati subito inclini a fare una prova. Inoltre, molti a cui non andava di pagare il conto del loro medico pensarono con piacere di aprire un conto con un nuovo medico e di mandarlo a chiamare incessantemente se i loro figlioli avevano bisogno di una medicina, occasioni in cui il vecchio generico era piuttosto intrattabile. E tutte le persone così incline a servirsi di Lydgate sostennero che era probabile che fosse bravo. Alcuni osservarono che poteva fare più di altri dove si trattava del fegato. Perlomeno non ci sarebbe stato alcun male nel procurarsi alcune boccette di roba da lui, dato che se queste si dimostravano inutili, sarebbe sempre stato possibile tornare alle pillole depuratrici che mantenevano la vita, anche se non liberavano dal colorito giallo. Ma costoro erano persone di minore importanza. Le buone famiglie di Middlemarch non erano naturalmente intenzionate a cambiare medico senza un valido motivo, e tutti quelli che si erano serviti del dottor Peacock non si sentirono obbligati ad accettare un medico nuovo semplicemente perché questi gli era succeduto, obiettando che non era probabile che fosse uguale a Peacock. Ma Lydgate non era da molto in città, che già si verificarono sufficienti particolari su di lui da alimentare speranze molto più specifiche e da trasformare le differenze di opinioni in partigianeria. Alcuni dei particolari appartenevano a quella specie impressionante il cui significato è completamente nascosto come una cifra statistica senza un termine di paragone, ma con un punto esclamativo in fondo. I metri cubi di ossigeno ingoiati da un adulto, che brivido avrebbero suscitato in alcuni circoli di Middlemarch. Ossigeno! Nessuno sa cosa possa essere. C'è da meravigliarsi che il colera sia arrivato ad Anzica. Eppure c'è gente che dice che la quarantena non serve a niente. Uno dei fatti di cui corse presto la voce fu che Lydgate non vendeva medicine. La cosa era offensiva sia per i medici, il cui privilegio esclusivo sembrava usurpato, che per i dottori farmacisti fra i quali egli si classificava. E solo poco tempo prima, E se avrebbero potuto avere la legge dalla loro parte contro un uomo che, senza appartenere alla Corporazione dei Medici di Londra, osava chiedere di venir pagato tranne che per le spese delle medicine. Ma Lydgate non era sufficientemente esperto da prevedere che la sua nuova linea di condotta sarebbe stata ancora più offensiva ai profani. E con Mr. Mosey, importatore droghiere del Top Market, che sebbene non fosse uno dei suoi pazienti, lo interrogò in maniera affabile sull'argomento, egli fu abbastanza avventato da fornire una precipitosa e grossolana spiegazione delle sue ragioni, facendo notare a Mr. Mosey che doveva abbassare la dignità dei generici ed essere un insulto costante per i pazienti se il loro unico modo di farsi pagare per l'opera prestata consisteva nel redigere lunghi elenchi di pozioni, pillole e sciroppi.